20 Va ora in onda l'artiglio. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2010, questo è l'Artiglio, un programma settimanale di approfondimento cinematografico. Vi terremo compagnia per la prossima mezz'ora circa. Con me alla parte tecnica, come di consueto, Fabio, in redazione operose come api Eleonora e Teresa. Una settimana di festa, quella che sta per concludersi, una settimana che speriamo abbiate passato nel migliore dei modi, fra pranzi faraonici e scampagnate con gli amici. Speriamo siate riusciti a trovare il tempo di andare al cinema, come hanno fatto molti italiani. E andiamo subito a dare un occhio alla classifica degli incassi al botteghino per la settimana che sta per concludersi. Una classifica che, come di consueto, nella migliore tradizione delle feste comandate, vede piazzarsi al primo posto una commedia nostrana, e sto parlando di La vita è una cosa meravigliosa, il nuovo film dei fratelli Vanzina, in sala dal 2 aprile scorso, che incassa questa settimana oltre 1 milione di euro, in particolare 1.570.134 euro, dunque nella migliore tradizione nostrana, e scalza in classifica al primo posto Dragon Trainer, il film d'animazione della DreamWorks, che anche questa settimana supera il 1 milione di euro incassati, 1.113.180 euro, con un totale in 2 settimane di programmazione di 3.092.000 euro. Al terzo posto Happy Family di Gabriele Salvatores conferma il trend positivo annunciato la settimana scorsa, guadagna anche questa settimana oltre 1 milione di euro, 1.046.488 euro. Novità in classifica anche negli Stati Uniti, nelle sale statunitensi si piazza al primo posto per gli incassi Scontro fra Titani, Clash of the Titans, questo è il titolo originale con il quale la pellicola è stata distribuita nelle sale di tutto il mondo. Il film è un epic movie diretto da Louis Leterrier, una produzione statunitense ed inglese, remake di una pellicola diretta nel 1981 da Desmond Davis. Scontro fra Titani sarà nelle sale a partire da venerdì 16 aprile, dunque dalla settimana prossima, avremo dunque occasione di riparlarne. Al secondo posto un'altra new entry, Why Did I Get Married To, una commedia scritta e diretta da Tyler Perry. Perry, che recentemente ha vestito i panni del produttore esecutivo per Precious, un lungometraggio che ha ottenuto ben 6 nomination alla cerimonia degli Oscar 2010, vincendone 2, fra le quali quella per la migliore attrice non protagonista, vinta dall'esuberante Monique. Al terzo posto anche negli Stati Uniti Dragon Trainer, il film della DreamWorks, l'abbiamo detto, questa settimana incassa 29.010.000 dollari, con un totale di 92.135.916 dollari, dunque che si avvicinano quasi al budget di 120 milioni di dollari spesi per realizzare la pellicola. Piccola curiosità, al decimo posto, tanto nelle sale statunitensi quanto in quelle italiane, Shutter Island, il nuovo film di Martin Scorsese, che anche questa settimana si difende bene qui da noi, incassando 264.000 euro, con un totale di 6.619.675 euro, una prestazione dunque di tutto rispetto. Questa era la situazione al box office per la settimana cinematografica che sta per concludersi. Passiamo adesso a dare un occhio a qualche notizia che ci è stata fatta pervenire dalla redazione, da Eleonora e Teresa, lo ricordiamo che collaborano con grande solerzia. E la prima notizia è una notizia triste ma dovuta. Dobbiamo tributare il nostro addio al grande Gregorio Napoli, che si è spento la mattina del 2 aprile scorso nella sua casa di Palermo a 75 anni. Per chi non lo conoscesse già, Gregorio Napoli è stato il critico di punta dal 1964 del Giornale di Sicilia, collaboratore delle principali testate cinematografiche della penisola, ricordiamo Lumière, Quaderni di Cinema e Prima Fila. È stato inoltre socio fondatore del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Napoli negli ultimi anni aveva partecipato con grande professionalità ed una buona dose di autoironia ad alcuni lavori della coppia siciliana Cipri e Maresco. In particolare ricordiamo il documentario Come inguaiammo il cinema italiano, la vera storia di Franco e Ciccio del 2004 ed Il ritorno di Cagliostro del 2003. Ed è proprio con un breve estratto da quest'ultima pellicola che vogliamo ricordare Gregorio Napoli. Nella scena che andremo ad ascoltare fra poco, Napoli è chiamato a ricostruire in breve la biografia del regista Pino Grisanti, leggendario quanto infausto collaboratore dei fratelli Lamarca e della loro trinacria cinematografica. A questo punto della storia, i Lamarca furono investiti da una grande responsabilità. Dovevano cioè trovare un regista all'altezza della situazione. Ma su chi cadde la scelta? La scelta cadde su Pino Grisanti, un onesto artigiano che lavorava per la Zagara Film, concorrente della Trinacria. Il cavallo di battaglia di Grisanti fu senza dubbio gli invincibili Beati Paoli, derivato sia pure liberamente dal famoso romanzo di Luigi Natoli. È interessante perché scopre una Palermo segreta, una Palermo sotterranea, una Palermo carica di tutti quei misteri che si sviluppano più tardi negli anni e che forse affliggono la capitale siciliana anche oggi. Questo era dunque il nostro personalissimo omaggio ad un importante tassello della storia del cinema italiano. Passiamo adesso ad una notizia che viene da oltreoceano, da San Diego negli Stati Uniti, dalla sede della Mindsign Neuromarketing, un'azienda di neuromarketing, di ricerche di mercato, in particolare relative ai prodotti del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, azienda che realizza delle costosissime e complicatissime ricerche per verificare il grado di attivazione cerebrale relativa al consumo di beni come film, libri o videogiochi. La Mindsign Neuromarketing ha stilato per la rivista americana di cultura tecnologica Wired una classifica dei 10 film più stimolanti dal punto di vista cerebrale, una classifica che vede piazzarsi al primo posto indiscusso l'ultimo lavoro acclamatissimo del regista Quentin Tarantino. Sto parlando ovviamente di Bastardi senza gloria. Il mio nome è Rain, tenente Aldo Rain, e mi servono 8 soldati. Ci lanceremo sulla Francia vestiti da civili per fare una cosa e una sola: uccidere i nazisti. Ogni uomo sotto il mio comando deve portarmi 100 scalpi di nazisti! E io voglio i miei scalpi! Nein, nein, nein, nein, nein, nein! E la Mindsign dichiara che è sufficiente il solo trailer del film di Tarantino per suscitare curve emozionali altissime, curve che vengono addirittura paragonate a quelle suscitate dai capolavori del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Seguono in classifica Fast and Furious e Star Trek di J.J. Abrams, padre di Lost. Piccola curiosità, si piazzano rispettivamente al sesto e all'ottavo posto Avatar ed Alice in Wonderland, e in qualche modo stabilendo che il primato al botteghino non si traduce in una in un primato nello stimolo dell'attività neuronale. Questa era la notizia dagli Stati Uniti, da San Diego. Torniamo in Italia per una notizia graditissima. E infatti nel primo tragico anniversario del terremoto che ha sconvolto il 6 aprile 2009 l'Aquila e l'Italia intera, Sabina Guzzanti ha annunciato il proprio ritorno alla regia, 5 anni dopo Viva Zapatero e 3 anni dopo Le ragioni dell'Aragosta, dunque con un film che si piazza a metà strada fra il documentario e la satira, nello stile di Michael Moore, che tra l'altro è anche amico personale di Sabina Guzzanti. Il titolo del nuovo lavoro dell'artista è Dracula, un titolo che la dice lunga sui contenuti del lavoro. Si parlerà ovviamente del terremoto in Abruzzo, visto come una importantissima occasione per il premier di risalire la china della popolarità in un periodo di caduta libera del gradimento, e per i suoi collaboratori e amici per imbastire affari d'oro molto spesso al limite della legalità. Andiamo a sentire qualche secondo dal trailer di 2 minuti e 13 pubblicato da Sabina Guzzanti qualche giorno fa su internet. Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda, come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna. E ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati. I sondaggi lo davano in caduta libera. Così, quando alle 3:32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano. Questi erano dunque i primi secondi del trailer di Dracula, il nuovo lavoro di Sabina Guzzanti. Sabina scrive sul suo blog che Dracula è un film in 4D, laddove le D stanno per democrazia. È stato infatti un work in progress al quale tutta la community virtuale ha partecipato in maniera attiva. Nelle frasi di Sabina si legge perfettamente la dimensione democratica e critica del lavoro. Questo paese vive di silenzi, dimenticare per risolvere come codardi, cancellare gli errori del passato con una semplice formattazione della memoria. Noi siamo per la conoscenza e non per il condono dell'intelligenza. Queste le frasi di Sabina Guzzanti che accompagnano dunque la presentazione del suo nuovo lavoro, Dracula, nelle sale italiane a partire dal 7 maggio prossimo. Passiamo invece adesso a dare un occhio a quanto le sale avranno da offrirci nel prossimo weekend, a partire da venerdì 9 aprile. Un weekend ricco di uscite tutte di grandissima qualità, ce n'è davvero per tutti i gusti. Partiamo con un film giapponese, una produzione giapponese del 2008, sto parlando di Departures, un lungometraggio diretto da Yoshiro Takita, lungometraggio che ha ottenuto la statuetta per il miglior film straniero alla scorsa edizione degli Oscar. È una storia, questa di Takita, delicata e raffinata, che affronta temi fondamentali come la vita, l'amore e la morte. Lo fa ricostruendo la vicenda di Daigo, un violoncellista in crisi, in fuga dall'orchestra di Tokyo e dalla città stessa, per rifugiarsi nel proprio villaggio natale in compagnia della moglie. Ed è proprio nella dimensione assorta, sonnacchiosa del villaggio che Daigo rifletterà sul proprio tumulto interiore, e lo farà anche grazie all'aiuto di un eccentrico becchino del luogo. Questo è Departures, un film di Yojiro Takita, nelle sale a partire dal 9 aprile. E molta meno filosofia e tantissima azione invece per Green Zone, il nuovo lungometraggio della coppia Paul Greengrass-Matt Damon, che ha già firmato due capitoli della saga dedicata a Jason Bourne, in particolare The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum. Paul Greengrass torna dunque ad un cinema a metà strada fra cronaca e finzione, dopo Bloody Sunday, United 93, che gli valse addirittura la nomination come miglior regia agli Oscar. La storia è quella del maresciallo Roy Miller, interpretato da Matt Damon, a capo di un team di ispettori dell'esercito statunitense mandato a Baghdad nel 2003 a cercare armi di distruzione di massa, dunque prima dello scoppio della cosiddetta Seconda Guerra del Golfo. Miller si troverà coinvolto in una serie di piani ambigui e sarà costretto a scoprire la natura di una misteriosa agenzia che opera sul territorio iracheno e che potrebbe tanto ripulire il regime dittatoriale di Saddam quanto creare le premesse per una guerra in una regione instabile quanto economicamente appetibile. Parla dunque al presente il nuovo film di Paul Greengrass, Green Zone. E dall'America e dall'Iraq torniamo in Italia, in particolare in Basilicata, per annunciare il debutto alla regia di Rocco Papaleo. Rocco Papaleo, un attore chiave nella commedia italiana contemporanea, ha lavorato con registi del calibro di Gabriele Salvatores, Giovanni Veronesi o con il suo grande amico Leonardo Pieraccioni. Debutta alla regia Papaleo con questo Basilicata Coast to Coast, che racconta la storia di un gruppo di musicisti impegnati in un viaggio a piedi da una costa all'altra della Basilicata per partecipare al Festival del Teatro Canzone di Scanzano Ionico. Un viaggio che avrà valore terapeutico, che permetterà ad ognuno di loro di conoscere qualcosa in più di se stesso e dei suoi compagni. Rocco Papaleo dirige dunque questo film, lo interpreta al fianco di Alessandro Gassman, Max Gazzè e Giovanna Mezzogiorno. Questo dunque era Basilicata Coast to Coast. Ma passiamo a quella che a nostro avviso è la più importante uscita del weekend, l'uscita che sancisce il ritorno alla regia di uno dei più acclamati quanto controversi registi contemporanei. Sto parlando di Roman Polanski e del suo L'Uomo nell'Ombra, The Ghost Rider. Uomo nell'Ombra che ha già conquistato l'Orso d'Argento al Festival del Cinema di Berlino del 2010, una pellicola che rischiava però di fare notizia più che per i meriti artistici, per le controverse condizioni nelle quali il regista è stato costretto a portare a termine la post-produzione. Polanski, infatti, lo ricordiamo, è rinchiuso nel suo chalet svizzero dal 26 settembre 2009, quando appena sbarcato a Zurigo è stato messo sotto custodia dalle forze dell'ordine locale per un'accusa di molestie sessuali risalente a più di 30 anni prima. Sono proprio 30 anni che il caso di Roman Polanski continua a creare discussioni e contrasti dentro e fuori dal mondo del cinema. In particolare si sono schierati al fianco del regista artisti del calibro di Woody Allen, Steven Spielberg o Pedro Almodovar. Polanski torna al cinema a 5 anni da Oliver Twist e ad ormai 8 anni dalle 7 nominations all'Oscar per il bellissimo Il Pianista, pellicola che ne avrebbe poi collezionate 3, fra le quali quella ambitissima per la migliore regia. Questo Uomo nell'Ombra è un film scritto ed adattato per il cinema dal giornalista Robert Harris, dunque ancora una volta un cronista nelle vesti di sceneggiatore, come già era stato per Mark Ball e per The Hurt Locker, strapremiato all'ultima cerimonia degli Oscar. The Hurt Locker è un lungometraggio, lo ricordiamo, diretto da Catherine Bigelow. Con L'Uomo nell'Ombra Polanski torna al cinema e lo fa nella maniera che più gli è congeniale, a costruire e dirigere una storia un thriller sostanzialmente fatto di situazioni ambigue e continui rovesci di scena. Una pellicola questa che cita i grandi maestri del brivido ed in particolare il principe indiscusso del giallo Alfred Hitchcock. La storia è quella di un ghostwriter, di uno scrittore fantasma chiamato a completare le memorie dell'ex ministro britannico Adam Lang, interpretato da Pierce Brosnan, memorie lasciate incompiute dal precedente ghostwriter morto in circostanze misteriose cadendo da un traghetto. Questo dunque era L'Uomo nell'Ombra, nelle sale a partire da venerdì 9 aprile, diretto da Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. E passiamo dunque dalla poltrona in sala alla poltrona del salotto, andando a dare un'occhiata al palinsesto televisivo, a quanto di buono ad offrirci la televisione nella settimana a venire. Partiamo da domenica 11 aprile, dalla notte di domenica 11 aprile, perché su Rai 3 alle ore 1:50 verrà trasmesso 5 pezzi facili, un classico, un film del 1970 diretto da Bob Rafelson con Jack Nicholson e Karen Black. Un film che ottenne ben 7 nominations agli Oscar nella cerimonia del 1971, nomination fra le quali quella per il miglior film e il migliore attore protagonista. Entrambe le statuette poi sarebbero state vinte dal generale Patton di Francis Ford Coppola. La storia è quella di un inquieto pianista, Bobby Dupuy, che, abbandonata la famiglia e la prospettiva di una brillante carriera da concertista, decide di cercare sulla strada la cura per il suo tumulto interiore. Dunque, dopo Basilicata Coast to Coast, ancora una storia di musicisti sulla strada. Questo era 5 pezzi facili, in onda su Rai 3 all'1:50 di domenica 11 aprile. E dalla notte al pomeriggio, il pomeriggio di lunedì 12 aprile, sulla 7 alle 14:05 andrà in onda Il Vedovo, una commedia diretta da Dino Risi nel 1959. È una delle più brillanti commedie del grande regista scomparso nel 2008. Una commedia che vede affiancarsi Franca Valeri e Alberto Sordi nei panni di una coppia che si contende senza esclusione di colpi una cospicua eredità. Una grande commedia per tutti gli amanti del cinema italiano e non solo, andrà in onda sulla 7 lunedì 12 aprile alle 14:05. E non poteva mancare il consiglio tamarro della settimana. Dopo la settimana scorsa con Tango e Cash, questa settimana vi consigliamo mercoledì 14 aprile su Italia 1 in prima serata alle 21:10 dunque Die Hard, Vivere o Morire, un film del 2007 ovviamente con Bruce Willis, che torna dunque a vestire i panni dell'agente John McClane, impegnato stavolta a sgominare un gruppo di cyberterroristi che sta seminando il panico su tutto il territorio statunitense. Questo era dunque Die Hard su Italia 1 alle 21:10 di mercoledì 14 aprile. E sempre mercoledì 14 aprile, in piena nottata alle 3 su Rai 1, andrà in onda un classico del brivido, un film del 1986, sto parlando del Nome della Rosa, diretto da Jean-Jacques Annaud, una produzione condivisa fra Italia, Francia e Germania. Un film per il quale Eleonora vi consiglia di munirvi di abbondanti razioni di caffè, un classico che tutti gli amanti del cinema non possono assolutamente lasciarsi scappare. La storia è quella di una serie di cruenti delitti in una abbazia durante il Medioevo, delitti sui quali sarà chiamato ad indagare il frate francescano Guglielmo da Baskerville, interpretato da Sean Connery. Piccola curiosità, per la parte del monaco storpio Salvatore era stato ingaggiato Franco Franchi, che rifiutò all'ultimo minuto la parte che poi sarebbe stata assegnata ad un allora sconosciuto Ron Perlman, che tutti quanti avranno avuto occasione di apprezzare invece recentemente nei panni di Hellboy nei due capitoli della saga firmata da Guillermo del Toro. Questi dunque erano i film in TV segnalativi dalla redazione per la prossima settimana. Siamo in dirittura d'arrivo, ma non possiamo lasciarvi senza il consiglio cinematografico della settimana. Ne avevamo già parlato in apertura ricordando Gregorio Napoli. Il film che vogliamo consigliarvi è un film italiano del 2003, sto parlando del Ritorno di Cagliostro, diretto dalla coppia Cipri e Maresco, coppia, per chi non la conoscesse già, responsabile della serie culto Cinico TV, andata in onda qualche anno fa su Rai 3 ed ospitata in trasmissioni come Avanzi e Blob. Il film si piazza a metà strada fra Effetto Notte di Truffaut e Prendi Soldi e Scappa di Woody Allen. È un mockumentary, un falso documentario ambientato negli anni 40, che ricostruisce la storia dei fratelli Carmelo e Salvatore Lamarca e della loro Trinacria cinematografica, una catastrofica casa di produzione responsabile di raccapriccianti lungometraggi come Gli Invincibili Beati Paoli, La vita di Santa Rosalia e O figlio infame. E i due, coperti dai debiti, proveranno a riscattarsi quando un folle nobiluomo del luogo deciderà di finanziare un ambizioso progetto sulla vita del conte di Cagliostro. Questo era dunque il nostro consiglio, Il Ritorno di Cagliostro, diretto da Franco Cipri e Daniele Maresco del 2003. Siamo arrivati alla fine della puntata, vi ringraziano insieme a me Fabio alla regia ed Eleonora e Teresa in redazione, vi auguriamo un buon fine settimana e trovate il tempo di andare al cinema perché questa settimana ne vale veramente la pena. Noi ci sentiamo, speriamo, la settimana prossima, un saluto a tutti. Dieci, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,